se vi porto, supporto. Sassari tagli accorto, io non importo. Io sento in porto, Sassari all'ascolto. Da Sassari esporto, rap senza l'ingotto. Scoperto il coperchio del sepolcro. Seppellisco il fascista porco che non sopporto. L'unico fascista buono è un fascista morto. Nuoto nel fango per togliermi lo sporco. Porco Giuda, più di un Giuda. Fra di fronte mio, Sassari è nuda. Qua si corre e suda, appresa ad una chimera. Sassari vedo manera di chi sogna e spera. Fottuta carogna, prima uccide dopo prega. Questa te la devo, niente mi hai dato, niente ti ho chiesto. Questa te la dovevo, tu che hai stabilito ad ogni vita un prezzo. Questa me la bevo, alla goccia la grezzo. S-A-S-A-R-I, vivo, cresco e morirò qui. S-A-S-A-R-I, dove tutto resta così. S-A-S-A-R-I, vivo, cresco e morirò qui. S-A-S-A-R-I, dove tutto resta così. Sassari che vive nel cuore di chi la scrive. Sassari di notte tra barboni e divise. Sassari di notte tra lampioni e palazzi. Sassari di notte che guarda come ti comporti. Sassari di notte tu non la fotti. Questa è la realtà, Sassari città. Mentre chiudo un'altra rima, questa è Sassari di prima. Sassari regina, Sassari è bella come una cartolina. Sassari del gremio, città del cielo. In onore alla Madonna, una promessa al cielo. Sassari di notte, vista in bianco e nero. Sassari di notte di chi la vive per davvero. Sassari di notte, tra fede e mistero. Sassari di notte, avvolta nel credo. Sassari stretta in preghiera. È un messaggio di speranza per tutti quelli chiusi in galera. S-A-S-A-R-I, vivo, cresco e morirò qui. S-A-S-A-R-I, dove tutto resta così. S-A-S-A-R-I, vivo, cresco e morirò qui. S-A-S-A-R-I, dove tutto resta così. La nostra gente vive così, la non vive così.